Stasera abbiamo Dono perché amo. Oggi è un giorno di festa perché abbiamo Dono perché amo. Quanti se lo sono ricordati? Spero tutti noi. Se no abbiamo occasione ancora domenica prossima per dare con Dono perché amo. E la domanda che nasce spontanea è: perché come Chiesa facciamo questo? Perché abbiamo Dono perché amo? No, giusto per farvi pensare un attimo alla risposta, no? Oh, che silenzio. Abbiamo Dono perché amo per una ragione molto, ma molto semplice. Aki, perché? Perché amo? Perché amiamo? Abbiamo Dono perché amo per una ragione molto, molto semplice. Chi è che vuole rispondere a questa domanda? Io? Nessuno. Vabbè, state dicendo indirettamente, dicelo tu perché non vogliamo dare la risposta sbagliata. Abbiamo Dono perché amo, perché siamo una Chiesa che ama la generosità. Amen? Non so se vi siete resi conto che siamo una Chiesa che è estremamente generosa e che vuole sempre essere generosa e che non fa altro di parlare, di donare, di dare, di investire per il regno di Dio. Siamo una Chiesa generosa e ti accorgi di far parte di una Chiesa generosa dal numero di buste che noi abbiamo. Abbiamo la busta, la mia offerta che vedete davanti a voi sopra alla sedia, abbiamo la busta che è rossa, abbiamo la busta verde, non so perché questi colori, però abbiamo tutte queste buste con tutti questi bei colori, abbiamo la busta verde per la missione, abbiamo la busta viola, non lo so perché viola. Dov'è? Ah, Vito non c'è perché ha la febbre, però viola è un po' un colore funesto, no? È da funerale, dovremmo cambiarla questa cosa, la decima non è un motivo di funerale. Poi abbiamo avuto nella storia, perché lo vedevamo proprio qualche giorno fa con Luciana, io ce le ho tutte queste buste nella mia scrivania, non so se pure tu hai tutte queste buste, anche la promessa di una raccolta miracolosa fatta in passato, e poi avevamo la busta gialla per il dono del nuovo complesso. Siamo una Chiesa generosa e te ne rendi conto dal numero di buste. Cioè, noi abbiamo buste per ogni cosa. Noi come Chiesa, quando andiamo al supermercato e arriviamo alla cassa, non diamo i soldi, diamo la busta alla cassiera. Noi quando incrociamo il musicista di strada o quello che ci lava i vetri, noi non lasciamo gli spiccioli così, lo dobbiamo mettere in una busta e lasciamo la busta. A chi ci lava i vetri non diciamo non ho spiccioli, diciamo non ho la busta, mi dispiace, perché noi siamo ossessionati dalle buste, abbiamo buste per ogni cosa e questo ci parla della nostra generosità, veramente non a scherzo, ma la scorsa settimana i miei genitori mi hanno fatto un dono per quello che era il mio compleanno e mamma non aveva la busta ed era imbarazzata, aveva questi soldi in contanti e le tremava la mano, si è creato un momento di silenzio in famiglia Ronchi, proprio un momento di ghiaccio. Non è possibile, sta dando senza la busta. Si è fermato il tempo, l'orologio non correva più. Noi, a parte gli scherzi, noi abbiamo queste buste, abbiamo queste occasioni, abbiamo Dono perché amo, questo è il settimo anno che abbiamo Dono perché amo, perché vogliamo essere una Chiesa generosa che non si risparmia. Noi vogliamo essere, qui ci sarebbe un amen più forte, una Chiesa generosa che non si risparmia. Amen. E non ce ne vergogniamo, perché questo è il desiderio di Dio. Noi facciamo Dono perché amo, noi raccogliamo, noi diamo le decime, le offerte, nella missione, straordinariamente come questa sera faremo, e lo facciamo perché, non perché vogliamo arricchire qualcuno. Qui nessuno si arricchisce, amen. Siamo d'accordo su questo, no? E non lo facciamo perché vogliamo delle casse più piene di soldi per spendere soldi, perché ci piace spendere soldi e fare le persone lussuose, la chiesa lussuosa. Noi non raccogliamo soldi per nessuna di queste ragioni. Noi raccogliamo soldi e vogliamo raccoglierne quanti più possibili per l'avanzamento dell'Evangelo di Cristo Gesù. noi raccogliamo soldi perché vogliamo vedere questi soldi investiti in mezzi che possano permetterci di raggiungere più persone per quel messaggio che ha cambiato la nostra storia e la nostra vita per l'eternità. Per questo vale la pena spendere, investire, donare ed essere generosi. E questo noi facciamo anche questa sera. Tu sei parte di una chiesa di cui non ti puoi stancare di ascoltare, predicare, parlare e incoraggiare sul donare, perché noi vogliamo essere una chiesa che vuole che il regno di Dio avanzi e in più, e questa è la cosa più importante, noi facciamo questo perché facciamo tutto quello che noi facciamo come chiesa perché vogliamo seguire la parola di Dio. Se questo non fosse scritto nero su bianco nella Bibbia, nella parola di Dio, se questo non fosse l'insegnamento di Gesù Cristo, noi non faremmo dono perché amo, noi non raccoglieremmo le decime e le offerte, noi non faremmo nessuna azione rivolta a raccogliere soldi e finanze per l'avanzamento del regno di Dio. Ma, fratelli e sorelle, la parola di Dio è piena dalla Genesi all'Apocalisse su quello che è lo sforzo, l'impegno e soprattutto la gioia del dare. Da Genesi, dall'offerta di Abele e Caino, fino all'Apocalisse, nel trionfo di adorazione della Chiesa davanti all'Agnello e Dio in adorazione e servizio, leggiamo, la Bibbia ci parla di generosità, di donare, di donarsi. Questo è qualcosa che noi troviamo nella parola di Dio perché è l'attributo di Dio. Dio è generoso. Uno dei versi che più conosciamo tutti noi è Giovanni 3,16 che dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha... tutta la state dicendo. No, fermatevi. Giovanni 3,16 dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Dio ha amato e ha dimostrato il suo amore dando, donando. E quale Dio generoso abbiamo che ha dato il suo figlio a vivere su questa terra, a spendere i suoi anni su questa terra con una vita terrena. Lui che era seduto sul regno, nel regno dei cieli, in gloria, in ricchezza, si è abbassato, si è fatto servo, si è umiliato, si è spogliato. E come leggeremo anche, non lo leggeremo però, come presente nel capitolo dei versi che andremo a leggere, lui si è fatto povero per arricchire me e te. Lui è un Dio generoso e noi vogliamo essere una chiesa generosa. Se sei cristiano, è nel tuo DNA essere generoso. Anzi, fatemelo dire in una maniera un po' forte, non puoi essere cristiano e al tempo stesso essere avaro. Non puoi essere cristiano e mancare nella generosità del dare i tuoi averi. Le due cose vanno di pari passo perché un cristiano, essendo seguace di Cristo Gesù, prende l'attributo principale di Gesù, che è proprio l'attributo del dare e dell'essere generoso verso gli altri. E noi andremo a leggere questa sera dalla seconda lettera ai Corinzi, che l'Apostolo Paolo scrive, e dovete immaginare che su 13 capitoli di questa lettera l'Apostolo Paolo dedica 2 capitoli a dare finanziariamente, a raccogliere soldi per quello che è stata un'azione che possiamo definire il dono perché amo della Chiesa Macedone e della Chiesa dell'Acaia, di cui Corinto faceva parte. Queste due regioni vengono citate in questi capitoli e l'Apostolo Paolo insiste verso dopo verso in due capitoli molto ricchi di parole, molto ricchi di esortazione, molto ricchi di comandi e di incoraggiamento a dare. E perché lo fa? Perché nel cuore di Dio, è perché il meglio per la mia e la tua vita è vivere in accordo con quello che la parola di Dio ci insegna. Quindi andremo a leggere come comincia tutto il discorso l'Apostolo Paolo. Quindi andremo ad aprire proprio dal capitolo 8 e leggeremo i primi versi. Ora voglio spiegarvi questa raccolta in cosa consisteva. Questa era una raccolta per la Chiesa a Gerusalemme. Ed era una raccolta fatta perché la Chiesa in Gerusalemme soffriva di povertà. E la sofferenza della povertà della Chiesa di Gerusalemme era dovuta al fatto, quasi certamente al fatto che erano perseguitati. Ed essendo stati perseguitati, venivano esclusi anche dalla vita sociale. Quindi perdevano i loro lavori, perdevano le loro opportunità di poter essere inseriti normalmente nella società, un po', anzi, in maniera identica come accade oggi nella Chiesa perseguitata in tutto il mondo. La Chiesa di Gerusalemme era in bisogno, in estremo bisogno. Infatti gli apostoli fanno appello proprio all'apostolo Paolo di invitare la Chiesa sparsa nel mondo a contribuire e a dare ai poveri di Gerusalemme affinché loro siano incoraggiati dal corpo di Cristo che si unisce in generosità. E quindi l'apostolo Paolo, per incoraggiare i corinzi, comincia con queste parole e sono straordinarie. Io vorrei che le leggessimo insieme e spero che ciascuno di noi possa cogliere la pesantezza di questo esempio meraviglioso che noi vogliamo seguire. Leggete con me. Dice: ora fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile, la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti, io ne rendo testimonianza. Hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi, a questa raccolta straordinaria. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Possiamo lasciare un po' questi versi proiettati, così abbiamo sempre in considerazione quello che l'apostolo Paolo dice, perché io non voglio dire niente di mio, vorrei che la parola di Dio parlasse ai nostri cuori questa sera, come sempre. Quello che vorrei che noi tutti notassimo è che l'apostolo Paolo, per incoraggiare la Chiesa a Corinto, propone un esempio, che è la Chiesa macedone. E questo esempio è straordinario. Cioè l'apostolo Paolo, per incoraggiare i corinzi a dare, li mette a confronto con questa che è una chiesa incredibilmente generosa, a tal punto da far parlare l'apostolo Paolo con orgoglio, con vanto, a dire: io ne sono testimone, sono andati oltre, sono stati qualcosa di meraviglioso, seguite il loro esempio. Quanto vorrei che le persone, parlando della nostra Chiesa, possano parlare in questi termini. Quanto sarebbe bello, come sta accadendo, letteralmente, perché un mese fa il sindaco era fermo con i suoi assessori a dire: questa Chiesa è incredibile, ha dato, ma non per un proprio merito, per un proprio tornaconto, ma ha dato cibo, ha dato i bisogni e ha sopperito a qualcosa che noi come comune di Modugno non potevamo sopperire, per le famiglie povere. Abbiamo visto anche i video di Cristian Nani, direttore di Porte Aperte, no? che dice, parla con orgoglio, dice: grazie per il vostro dono, avete contribuito all'avanzamento del Regno dei Cieli. Nico Pugliese per il progetto Mica, e potrei andare avanti. Ci sono tante persone, Marta che è lì in missione, in questo momento ha la possibilità di testimoniare e dire a chi sta incontrando: sapete, io sono qui perché c'è una chiesa che è dietro di me, che prega per me, ma che oltre il pregare raccoglie migliaia di euro annualmente per permettere a me di portare l'Evangelo a voi. Questa è la testimonianza più bella. Io di questa chiesa voglio far parte, io questo voglio essere, questa dovrebbe essere la nostra famiglia, quanto più possibile. Amen. Io vorrei che noi potessimo avere la gioia nel nostro cuore di essere riconosciuti da altri quale una chiesa che è generosa, quale una chiesa che non si risparmia e quale chiesa che investe per l'avanzamento del Regno di Dio. Come mai è così straordinario? Perché parlo in termini così forti della Chiesa macedone? Cosa aveva di straordinario? Loro letteralmente avevano una generosità stravagante, io l'ho definita così, il titolo del mio messaggio è una generosità stravagante, una generosità che eccelle. E questo principalmente lo vediamo per tre aspetti specifici. Cioè, noi leggiamo, e puoi rimettere anche il verso così lo potete leggere anche voi stessi, che nelle loro molte tribolazioni, Il secondo rigo. Nelle loro molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Questa chiesa era straordinaria. Io ho detto, Signore, se dovesse qualcuno inventare una macchina del tempo, fammelo sapere, perché se c'è un posto dove io voglio ritrovarmi è nella chiesa macedone. La chiesa macedone è quella regione nella quale c'era la chiesa di Filippo. E noi abbiamo letto diversi versi della chiesa dei Filippesi lo scorso anno, vi ricordate? Questa è la chiesa che è caratterizzata dalla gioia, è una chiesa caratterizzata da una gioia immensa. Non solo, la loro gioia è manifesta anche nella loro generosità. Se io potessi tornare nel tempo, andrei in quella chiesa questa domenica e starei con loro per percepire quella che è la gioia loro nella tribolazione e nell'estrema povertà. Che caratteristica meravigliosa che la generosità di questa chiesa non era bloccata dall'estrema povertà nella quale vivevano. Ma voi cogliete il paradosso? Cioè questa chiesa era estremamente povera e nella loro estrema povertà hanno detto noi raccogliamo i nostri beni, i nostri soldi per aiutare un'altra chiesa estremamente povera. Ma dov'è la logicità in tutto questo? Non c'è. E sapete, è plausibile pensare che l'Apostolo Paolo, anzi è abbastanza chiaro da questi versi, che l'Apostolo Paolo non ha chiesto un contributo da questa chiesa. L'Apostolo Paolo, sapendo che la chiesa a Filippi erano loro stessi già così poveri, estremamente poveri, lui non è andato a questa chiesa a dire raccogliamo soldi per i poveri di Gerusalemme, perché per lui c'era un paradosso. Però quello che noi scopriamo è che è stata proprio la volontà di questa chiesa, il contribuire, l'essere generosi. Posso dirti questa sera che la generosità è qualcosa che tu vivi e non nessun limite la blocca. La vera generosità, la generosità autentica non si ferma ai limiti, non vede gli ostacoli, non vede l'impossibilità, ma la generosità va oltre e vede in ogni possibilità l'occasione di dare al di là di quelli che sono i limiti, che parlano chiaro di non ce la posso fare, non sono io nella condizione, sono io stesso in bisogno. Questa è la prima caratteristica. La seconda è che erano veramente determinati. La generosità è qualcosa che parte dal cuore e ti rende determinato a fare una scelta. Cosa leggiamo della Chiesa Macedone? Leggiamo che loro hanno chiesto, visto che l'Apostolo Paolo non si è sentito di chiederlo a loro, perché erano estremamente poveri, loro hanno chiesto, guardate le parole, chiedendoci, il terzultimo rigo, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. Ma voi ve la immaginate questo dialogo tra l'Apostolo Paolo e la Chiesa Macedone? No, no, ragazzi, no, già voi state... No, no, no, noi vogliamo partecipare, dacci la possibilità di partecipare, prendi il nostro contributo. No, non è il caso, voi stessi siete in estrema povertà. Come potreste voi benedire un'altra... Non voglio che voi siate in questa... No, noi vogliamo il favore di poter partecipare con la Chiesa a questa sovvenzione per piacere. Prendi i nostri soldi, prendi i nostri averi. Vogliamo essere parte di tutto questo. Vogliamo far parte di questo dono perché noi amiamo. Che belle caratteristiche. La terza caratteristica è che erano mossi, e questa è la principale sulla quale voglio soffermarmi questa sera, che erano mossi da una gioia incontenibile. La generosità, quando è autentica, non nasce da un senso di obbligo. La generosità che tu stasera puoi esercitare attraverso la busta, non lo so qual è, di quella di questa sera, o i tuoi contanti messi nel contenitore, non può e non deve essere mossa da un sentimento di obbligo o da un sentimento di contraccambio. Io do a Dio, così Lui dà a me. Io do, così Lui mi nota, e magari risponde a quella preghiera. Non, non è questa. La generosità non guarda al contraccambio, non parte da un senso di obbligo, non risponde a una legge. La generosità autentica parte dalla gioia, dall'entusiasmo, dal vigore, dalla forza, da quello che ho detto prima, da una determinazione e da una voglia di partecipare incontenibile. Lo leggiamo insieme. Vedete come dice in questi versi sempre. Terzo rigo. La loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. La loro gioia incontenibile. Dio vuole che noi siamo una chiesa mossa da una gioia incontenibile. Hai gioia questa sera nel dare? Se non ce l'hai, non dare. Non ha senso. Non è nella logica di Dio. Non è gradito a Dio. Ma se hai gioia, allora dai, allora sarà qualcosa di gradito, allora sarà un bel esempio, allora porterà gloria al suo nome. Noi non dobbiamo essere mossi da una legge o da un sentimento e se non lo faccio poi la Chiesa non va avanti e non paga le bollette. Fammi dire questo, Dio non ha bisogno dei nostri soldi per pagare nessuna delle bollette. Dio non ha bisogno dei tuoi soldi per portare avanti il suo regno, lui lo farà con te o senza di te. È un tuo privilegio poter entrare in questa grazia e vivere questa gioia incontenibile. Quindi fatemi rispondere di nuovo alla domanda: perché facciamo dono perché amo? Noi facciamo dono perché amo, perché vogliamo essere una chiesa che vive di una generosità mossa da una gioia incontenibile. Amen? Lo dico di nuovo perché non vi ho visti proprio convinti, qua dovete essere... Noi siamo una chiesa che vive dono perché amo, perché è mossa da una gioia incontenibile. Sapete, funziona così, il dare deve essere mosso dalla gioia, ma il dare stesso, se dato nella maniera giusta, produce gioia. È qualcosa di meraviglioso. Sapete perché la nostra società vive della piaga della depressione? Sapete perché ci sono così tante persone depresse nella nostra società? Perché viviamo in una società che è materialista e dove ognuno è concentrato su quello che è il proprio avere, la propria casa, la propria macchina, la propria televisione, il proprio conto in banca, la propria famiglia. E più ti chiudi e più ti stringe, più guardi a te stesso e sei egocentrico, più vivi la tristezza più totale e cadi in depressione. È stato incredibile, ho fatto questo viaggio in India. In questa nazione la generosità è indescrivibile, perché sono poverissimi, sono entrato in case che erano delle baracche e sono uscito con dei soldi che le persone mi mettevano in mano, che equivalevano a 2, 3, massimo 5 euro, ma per loro era tutto, ed è stato difficilissimo per me accettare. Ho lasciato quella chiesa dando io un dono e ho chiesto al pastore: cerca di tornare a queste case, di queste famiglie, cerca di ridare loro questi soldi, perché era incredibile, e io li vedevo gioiosi, non privati di una gioia, ma arricchiti della gioia del dare. La vera generosità produce gioia. Poi sono tornato qui a Modugno. Una delle prime persone che ho incrociato era una vicina di casa, che mi ha detto: beh Mirko, come stai? Bentornato. Io ho detto: benissimo, ho avuto questo viaggio stupendo. Tu come stai? Come va la famiglia? Si tira avanti. Si tira avanti, è difficile Mirko. Mio figlio non ha lavoro. E non riusciamo, è pesante la vita. E io lì che avevo un bruciore allo stomaco, che stava per vomitare, tante di quelle parole che non avrei mai dovuto dire, infatti non le ho dette. e l'ho incoraggiata. Ho detto, dai, puoi farcela. Puoi... Se tu hai dei vestiti addosso, se hai mangiato un pasto caldo oggi, se hai un letto nel quale poter riposare, sei parte di quella minoranza sulla faccia di questa terra che vive nell'abbondanza. Tu sei benedetto, tu sei ricco. Smettiamola di dirci che siamo nella povertà più totale, perché questo schiaccerà te e il tuo futuro in un'angoscia, in una depressione che puoi non accettare. Vivi la generosità, quanto puoi dare? Spiccioli, dalli! Vivi la gioia del dare, perché questo porterà benedizione a te. Dio ama un donatore allegro. E noi lo leggiamo proprio nel capitolo successivo. Quindi l'Apostolo Paolo, dopo aver finito il capitolo 8, e nel capitolo 8 ha incoraggiato la chiesa dei Corinzi ancora, esortandoli a dare, addirittura ad essere pronti nel dare. Sapete che per dare dobbiamo prepararci. E la chiesa a Corinto, lui scrive queste cose proprio per dire: preparatevi, organizzatevi, fate un budget familiare, capite come potete dare per la sovvenzione ai santi, e aggiunge queste parole: fatelo affinché io non abbia da vergognarmi di voi, cioè ad essere imbarazzati, e anche voi non siate imbarazzati quando noi verremo. Questo è il cuore dell'Apostolo Paolo, dice: organizzatevi, fate i conti in famiglia per poter essere generosi, affinché possiamo godere di questo dono che non parte da un'avarizia, ma parte da un cuore generoso. E poi va avanti col capitolo successivo, che è il capitolo 9 dei Corinzi, 2 Corinzi 9, dove noi leggiamo questi versi che conosciamo, almeno il 90% di noi li conosce molto molto bene. Però adesso forse questa sera abbiamo la possibilità di inquadrarli come non abbiamo mai inquadrato prima queste parole. L'Apostolo Paolo aggiunge e dice: ora dico questo, dopo tutte queste parole, ora dico questo. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente. E chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. E poi aggiunge: Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Dio ama un donatore gioioso, e lui vuole che la sua chiesa sia fatta di persone che vivono la gioia. Se io sto dicendo queste cose, non è per appesantirti questa sera, per farti tornare a casa più abbattuto, ma questa sera te lo sto dicendo perché questa è una chiave che ti sto offrendo attraverso la parola di Dio, che sbloccherà la vera gioia nella tua vita. E io voglio che tutti noi a casa possiamo tornare con questa chiave in tasca da poter usare domani e dopodomani, che è una chiave che sbloccherà vera gioia in ciascuno di noi. Dio vuole che tu sia gioioso, e lui vuole darti gioia anche attraverso e soprattutto attraverso la tua generosità. Come lo fa? Beh, lo fa, e lo scopriremo, lo fa con due aspetti, con due rivelazioni importanti che escono da questi versi. La prima è che tu sarai gioioso nel tuo dare nel momento in cui ti rendi conto che il tuo dare, che la tua busta, è un seme. È così importante che noi comprendiamo la metafora che l'Apostolo Paolo ci dà, perché quello che l'Apostolo Paolo vuole dire è che quando voi date per il regno dei cieli, quando voi investite per l'Evangelo, quello che voi fate non è sprecare i vostri soldi, non è sperperarli, è un investimento, è una semina. Quello che state dando è un seme che porta frutto. Quindi se tu semini abbondantemente, raccoglierai abbondantemente. Ed è così importante che noi comprendiamo questo meccanismo, perché è solo comprendendo questo meccanismo che possiamo avere gioia piena. Io ho gioia nel dare. L'ho fatto stamattina, quindi non lo posso rifare stasera, perché ho dato tutto stamattina. Non mi è rimasto più niente, quindi non so con chi che devo prendere la pizza stasera. Marianella, me lo offrite voi, perché non mi è rimasto più niente. Scherzo. Però Quello che voglio dire è che io nel dare, nel mio dare, ho gioia perché so che quello è il migliore degli investimenti che io posso fare. Una macchina nuova non mi darà la gioia che mi dà poter investire nel regno dei cieli. Io so che questo video andrà su YouTube e saranno tante le persone che l'ascolteranno, probabilmente in diverse parti d'Italia, di diverse chiese. E io voglio aprire una parentesi e darmi la possibilità di non parlare solo a noi a voi che mi state ascoltando, ma anche a tutti coloro, guarda la telecamera, a tutti coloro che seguiranno questo video su YouTube. Noi come Chiesa di Cristo qui in Italia vogliamo un risveglio. Lo vogliamo, io lo sento predicato in tutte le chiese. Vogliamo risveglio in questo, vogliamo risveglio in questa città, lo vogliamo in questa regione. Sono stato a Torino, in Piemonte vogliono il risveglio. E poi se vai in Abruzzo, lì vogliono il risveglio. E se vai in Puglia, vogliono il risveglio. Tutti vogliono il risveglio, vogliono vedere l'opera di Dio avanzare. Eppure, quello che è uno dei più semplici gesti che Dio ci invita a fare per raccogliere abbondantemente, nessuno di noi è disposto a pagare quel prezzo. Di qualsiasi chiesa tu faccia parte, se non dai ancora la tua decima, se non hai scelto di dare il tuo 10% a Dio, questo sta derubando Dio e in un qualche modo sta bloccando quella raccolta abbondante che Dio ha per questa nazione. Perché Dio vuole per l'Italia un raccolto abbondante. Lui vuole farci vedere i miracoli suoi, ma questo parte dal momento, dalla scelta nostra, quale credenti, di seguire alla lettera quello che la parola di Dio insegna. Non dai la decima, dalla. Non fai parte di una chiesa, comincia a far parte di una chiesa e comincia a dare la tua decima dovunque ti trovi, perché nel tuo dare la decima benedirai il regno di Dio e vedremo insieme il risveglio in questa nazione per il nostro seminare abbondantemente. Amen. Noi stiamo seminando, condono perché amo, seminiamo perché vogliamo... Vogliamo vedere grandi progetti realizzati. Amen? Come Chiesa abbiamo delle ambizioni incredibili, siamo una Chiesa che sa sognare in grande. E questo passa dalla fedeltà e dalla scelta radicale di ogni credente di investire in questi progetti, anche economicamente parlando. Noi vogliamo provvedere un futuro a chi un futuro ancora non ce l'ha. Noi vogliamo investire per i più piccoli, per i bambini, spazi, materiale per loro, per farli crescere nella volontà di Dio. Ci sono volontari e persone che hanno delle capacità meravigliose in questa chiesa. Noi vogliamo vedere la musica, l'arte sprigionata da questa casa che possa benedire le famiglie, coloro che conoscono già Dio e coloro che ancora non lo conoscono. Noi vogliamo realizzare più produzioni musicali, noi vogliamo fare in modo che ciò che abbiamo, quali talenti in mezzo a noi, possano avere pieno vigore di essere una benedizione per la nazione, per le famiglie. Noi vogliamo osare, immaginare, sapete che stiamo realisticamente pensando a quello che è un passo azzardato incredibile. Noi stiamo pensando di realizzare una conferenza come Chiesa che possa essere di benedizione non solo per noi qui a Modugno, ma che possa benedire la regione e perché no anche la nazione, affinché da ogni parte della nazione possano venire qua. È già successo in passato con altri progetti. Io credo che Dio ci dà la grazia di poter fare una cosa del genere. Dio vuole darci la possibilità di essere una chiesa che è attiva anche in qualcosa che è un sogno che condividevamo con alcuni di noi, alcuni ministri, che è quello di poter permettere a quelle persone, a quei ragazzi e a quelle ragazze in mezzo a noi che si vogliono preparare per il regno di Dio. E vogliamo osare nel cominciare a pensare di poter dare un percorso di studi e un'esperienza a tempo pieno per questi ragazzi affinché siano preparati e affinché noi possiamo vedere quello che adesso cominciamo a percepire che avviene dalla nostra casa, da questa famiglia, cioè persone che lasciano questo luogo per fondare nuove chiese, per evangelizzare in posti non raggiunti. Lo vogliamo per la missione, lo vogliamo per la nostra regione, per le tante città ancora non raggiunte. Vogliamo dare vigore a progetti come quello che abbiamo attivo attualmente a Mottola. Vogliamo vedere lì una chiesa che prende più vigore, che cresce, una chiesa che diventa forte, una testimonianza in quella parte, poco raggiunta. Ci sono tante altre parti, tante altre province in questa regione, non lontane da noi, dove c'è tanto poca testimonianza. Noi siamo la risposta per questa regione e noi possiamo preparare ragazzi che hanno il desiderio di servire il Signore, e possiamo farlo insieme, mettendo insieme le nostre forze, anche economiche. Noi vogliamo andare avanti insieme, vogliamo correre e raggiungere nuovi territori. E l'elenco può andare avanti, c'è una pagina piena di cose che noi potremmo fare, che vorremmo fare. Vorremmo spandere quello che è il messaggio che predichiamo da questa casa attraverso mezzi di comunicazione. Perché no pensare alla televisione? Perché no pensare alla radio? Perché no pensare a mezzi di comunicazione moderni? Abbiamo dei talenti in mezzo a noi che ci permetterebbero in un batter d'occhio di poter fare queste cose. Ma dobbiamo essere uniti, dobbiamo sognare e dobbiamo smettere di pensare alla televisione a 42 pollici sul nostro soggiorno, per credere che c'è qualcosa di più importante e più grande del nostro benessere personale. La gioia, in questi versi lo comprendiamo molto bene, che la gioia del dare noi la afferriamo nel momento in cui capiamo che il nostro dare non è una sottrazione, è un'addizione. E a noi le sottrazioni non ci piacciono, vero? A noi la matematica non ci piace, ad essere sinceri, no? Perché stamattina li ho visti un po' in difficoltà con questa, che è un'equazione che proporrò. Se non la capite potete andare a Nella, è quasi ingegnere, lei può spiegarvi come funziona. Noi non amiamo le sottrazioni. Se pensate alla decima, no? Il nostro stipendio è 100, 100 meno 10 uguale 90. E non ci piace pensare che il nostro budget sia ridimensionato, che da tre cifre ci riduciamo ad averne due di cifre. Non ci piace la sottrazione perché ci sentiamo derubati, privati di qualcosa. E se noi pensiamo in questa logica, nel nostro dare per il regno di Dio, stiamo sbagliando tutto. E l'Apostolo Paolo qui sta correggendo la Chiesa a Corinto, a comprendere questo segreto, questa chiave, che è la chiave del Dio che è abbondante e che fa abbondare ogni bisogno per noi. È più bello pensare a 100 meno 0, e credo che la maggior parte di noi cerca di lottare tra quello 0 e quel 10, in modo tale che l'equazione sia magari non 100 proprio, però neanche 90. O non 80, o decisamente non 50. Ci piace più il secondo rigo che il primo. Però dobbiamo comprendere che la parola di Dio in questi versi ci sta spiegando che nel momento in cui noi ci priviamo di qualcosa con gioia, dandola liberamente con un cuore generoso per l'avanzamento del regno di Dio, noi non viviamo una sottrazione, noi di fatto viviamo un'addizione. A quel 100 meno 10, che è uguale a 90, si va ad aggiungere un infinito. E quell'infinito, quel piccolo elemento, quell'otto capovolto, è Dio nella tua vita. Nel momento in cui tu decidi di privarti di qualcosa che Dio ti comanda, tu avrai meno, avrai quel 90. Ma a quel 90 avrai la benedizione della presenza, del supporto, della gioia, della provvidenza divina, del suo infinito. E quell'infinito, vorrei che lo comprendessimo bene, non è Dio che ci provvede di nuovo di altri soldi, lo fa e ci sono tante persone che possono testimoniare questo, anche proprio di dono perché amo. Persone che hanno dato a Dio una certa cifra che sembrava insormontabile, il giorno dopo Dio ha provveduto proprio a quella cifra. È incredibile il nostro Dio, è meraviglioso. Però noi, io vorrei che noi comprendessimo che non è questo il principio che Dio applica. Che Dio non vuole che noi viviamo la nostra generosità come un contraccambio. Io do a Dio la mia decima perché così Dio deve provvedere al mio lavoro che non c'ho. Io darò straordinariamente a dono perché amo, perché so che Dio farà rientrare, come ha fatto con quel fratello, come ha fatto con quella sorella, quei soldi che io sto investendo. No, probabilmente non rientreranno. Ma la benedizione che avrai, la vera gioia di vivere su questa terra che avrai, la pienezza della sua presenza, il suo supporto, il suo essere. Lui ha detto: mettetemi alla prova in questo, mettilo alla prova in questo. Lui sarà quella giunta al 90 che ti sarà rimasto e tu sarai veramente una persona ricca. In quel momento diventi veramente ricco. Io voglio concludere con questo messaggio, perché non so qual è la busta che devi prendere in mano a partire da stasera. Questo messaggio non è tanto solo per dono perché amo, perché spero che tu sia già venuto preparato per dare, non hai bisogno di un incoraggiamento da questo punto di vista. Certo, se questo messaggio è stato di incoraggiamento per te, io ti invito a prendere la busta che trovi davanti a te e magari a dare la prossima domenica, perché raccoglieremo da queste buste. Oggi tutto quello che andremo a raccogliere, qualsiasi soldo, anche non nella busta, sarà destinato a dono perché amo. Ma io mi chiedo questa sera, qual è l'impegno che devi prendere? Forse non è la busta rossa, forse è la busta viola, o forse è la busta verde. La busta verde. Sapete che, e con questo concludo, la chiesa a Filippi, meravigliosa, questa chiesa motivata dalla gioia, quella chiesa di cui abbiamo detto che l'Apostolo Paolo incoraggia a dire: rallegratevi sempre nel Signore, lo ripeto, rallegratevi. Questa chiesa era parte delle chiese macedoni di cui abbiamo letto che con gioia incontenibile hanno dato generosamente. Beh, questa chiesa, dopo che è stato scritto questa lettera dall'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ne scrive un'altra, indirizzata proprio a loro, che è quella che abbiamo letto l'anno scorso, in più occasioni, la domenica. E quella lettera, dovete immaginare un po', che l'Apostolo Paolo la scrive alla chiesa ai Filippesi, perché questi pazzi scatenati, motivati da una generosità stravolgente, stravagante, avevano appena mandato all'Apostolo Paolo un dono. Non si sono fermati a fare quel dono perché amo destinato alla Chiesa e ai Santi di Gerusalemme. No, dopo, sapendo che l'Apostolo Paolo era in prigione, che questo missionario che andava avanti nel portare e annunciare la parola di Dio era in necessità, che cosa fa? Fanno una raccolta. La Chiesa si riunisce nella loro estrema povertà, perché non credo che siano cambiate tante cose in pochi anni, e nelle loro tribolazioni hanno di nuovo dimostrato quella gioia incontenibile manifestata attraverso la generosità. Hanno preso la busta verde, l'hanno riempita e l'hanno mandata all'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo ha ricevuto questo dono e gioioso, contento. E potete andare a leggere quando tornate a casa la lettera ai Filippesi, forse una delle lettere più belle che c'è nel Nuovo Testamento. E in questa lettera l'Apostolo Paolo esprime tutta la gioia. Nell'ultimo paragrafo esprime tutta la contentezza di questo dono. Ed è contento non perché si è arricchito di un dono, ma perché ha visto di nuovo la generosità di una chiesa meravigliosa. La scelta che io voglio fare questa sera è di essere un macedone. Quanti con me vogliono essere un macedone stasera? Ci trasferiamo tutti in Macedonia. Io voglio vivere quella generosità e io voglio scegliere di usare quella busta che ancora non uso tanto, che quest'anno io possa sfidare me stesso in quello che c'ho per poter contribuire, non solo dando le decime, le offerte, non solo come stamattina ho fatto per il dono perché amo, ma anche per la missione. Voglio continuare e voglio continuare in ogni cosa che il Signore ci dà la possibilità di vivere. Chi è con me in questo? Vogliamo alzarci in piedi. Tutto questo messaggio ha a che fare con il tuo cuore. Spero che tu ti renda conto di questo. Che Gesù dice: dov'è il tuo cuore, lì sarà il tuo tesoro. E io ti chiedo: dov'è il tuo cuore questa sera? E quale scelta puoi fare, devi fare, Io ti voglio accompagnare in questa preghiera e poi dopo questa preghiera possiamo liberamente dare, metteremo due contenitori grandi qui sui gradini. E io spero che possiamo vivere questo tempo come un tempo davvero di adorazione, perché stiamo adorando quel Dio che vogliamo onorare anche con i nostri averi. Stamattina abbiamo raccolto 6.400 euro. 6.400 euro di persone che forse con sacrificio hanno dato. E io sono contento, ma non per le cifre lunghe. Anzi, questo ci mette in una condizione anche di estrema responsabilità come ministri. Di estrema pressione davanti a Dio a dire: Signore, guidaci tu nell'essere estremamente sapienti nel gestire questi soldi. Ma la mia gioia più grande è sapere che questa mattina hanno lasciato questo locale tante persone con cuori rinnovati. Questa sera nel tuo dare, non dare per contribuire o per fare una cifra grande, metti in discussione il tuo cuore, quella è la cosa più importante, e andiamo avanti insieme in questo nuovo anno, dando tutto noi stessi per l'avanzamento del regno di Dio, perché Lui è degno di questo e di molto altro. Amen. Dobbiamo chiudere i nostri occhi, abbassare il nostro capo. E se tu sei qui questa sera che vuoi prendere un impegno nel dare generosamente, allora unisciti alla mia preghiera. Se vuoi, alza le tue mani in segno di arresa. E Padre, noi veniamo davanti a te arresi. Arresi e sconvolti da quello che è l'esempio di questa Chiesa, di questi nostri fratelli e nostre sorelle che hanno tracciato un solco che è rimasto nella storia, e ti ringraziamo, siamo grati perché la tua parola ci parla di questo solco che ha fatto la storia, e noi preghiamo, Padre, che noi possiamo seguire il loro esempio, che noi possiamo come Chiesa Pieno Vangelo qui a Modugno essere una Chiesa altrettanto generosa, una Chiesa che pur vivendo dei limiti, perché sicuramente in mezzo a noi ci sono dei limiti, sovrabbonda nella generosità che parte da un cuore che è incontenibilmente gioioso. Padre, noi vogliamo questo. E io prego per ogni persona che questa sera, all'udire queste parole, all'udire la tua parola, fa una decisione di dare non tanto soldi, non tanto beni, ma il proprio cuore a te. Io ti prego per tutti i cuori che in questo momento si stanno arrendendo alla tua presenza. E ti prego, Gesù, prendi i nostri cuori, perché noi non vogliamo rimanere soli. Vogliamo nell'equazione che tu sia con noi. Noi non vogliamo essere ribelli e distanti dalla tua volontà. Noi vogliamo te nella nostra vita e non vogliamo vivere come abbiamo vissuto in passato, ricercando i nostri bisogni, ricercando i nostri piaceri, mettendo noi al centro. Noi vogliamo benedire altri e vivere la vera gioia di vita, che è il privilegio di poter vivere una vita spesa per gli altri e per il regno tuo. Grazie, Padre, grazie di cuore, Gesù, per la Chiesa che siamo. Grazie di cuore per la generosità vissuta nei decenni passati. Grazie perché se siamo qui seduti nella sedia in cui ci troviamo è perché qualcuno ha osato, è perché qualcuno è stato generoso, è perché qualcuno ha investito anche migliaia di chilometri da qui. Noi benediciamo quelle persone e noi benediciamo quella testimonianza di vita e ti preghiamo, dacci grazia di poter vivere lo stesso tipo di vita. E di poter sapere un giorno che tante persone saranno grate, magari nel Medio Oriente, magari in posti dove noi non arriveremo mai e mai avremmo potuto immaginare di arrivare, che saranno grati a noi per la nostra generosità, che ha permesso a loro di conoscere il tuo meraviglioso amore. Noi vogliamo entrare nel piano meraviglioso che tu hai per le nazioni e vogliamo contribuire ad essere partecipi di questa vita meravigliosa e straordinaria. Voglio pregare, Padre, per tutto quello che andremo a raccogliere e per ogni donatore gioioso che darà questa sera liberamente, e ti prego, Padre, anche di darci tanta sapienza nel ministrare questi soldi per l'avanzamento del tuo regno. A te la gloria e l'onore. Amen.